ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Terza puntata. La tana della squadra del Baffo era la più in disordine e puzzolente del caposaldo. Appena entrato non distinsi nulla, ma era una nebbia pesante, gravida di mille odori. Sentii brusii di parole e le grida di due alpini che litigavano per aver la pentola dove far bollire i pidocchi. «Buongiorno a tutti e buon anno!» gridai dall'uscio. E con me entrò un soffio di aria fredda e bianca. Qualcuno mi rispose, qualcuno mi tese la mano, qualche altro brontolò fra i denti. Un po' alla volta incominciai a distinguere le figure che si muovevano. Misi d'accordo i due che litigavano per la pentola. Parlando nel loro dialetto raccontai della pattuglia e della morte del tenente Sarpi. Sapevo che il Baffo mi ascoltava anche se fingeva di dormire. Non mi vedeva volentieri nella sua tana. Parlava male di me e i suoi uomini, alcuni gli credevano, altri no. Mi spiaceva molto che succedesse questo nel nostro caposaldo, dove tutti andavamo d'accordo e ci aiutavamo. Non mi sopportava perché lo chiamavo di notte per far dare il cambio alle vedette e perché gli ordinavo di tener pulite le armi, ordinata la tana. Si lamentava quando la posta non arrivava, quando il rancio era poco, quando era freddo, quando c'era fumo, quando c'era la dissenteria. Sempre. Se poi gli arrivava la posta non era contento, e se la stufa non faceva fumo non era contento, se il rancio era sufficiente non era contento, se i pidocchi lo lasciavano tranquillo non era contento, se era caldo non era contento, e gli uomini della sua squadra facevano metà lavoro di quelli di Pintossi. Per fare una postazione impiegavano giornate e giornate, bisognava star loro dietro ad incitarli di continuo e lavorare di più per dar loro l'esempio. Per fare il collegamento col Morbegno avevano paura di attraversare la zona deserta. Gli uomini di Pintossi invece avevano fatto persino il tubo della stufa con scatolette vuote incastrate l'una nell'altra. Il Baffo era così perché stanco di naia. Aveva più di 30 anni e forse 8 di servizio militare. Era stato in Africa, poi sorteggiato per la Spagna, poi in Albania e infine qui. Era venuto nella nostra compagnia con i complementi dopo il 1° settembre ed era stanco di naia, non ne poteva più. Io parlavo nel loro dialetto, forte, che mi sentisse anche il Baffo. Chiedevo dei figli a chi li aveva, che strada bisognava prendere per arrivare al loro paese, promettevo che da borghese sarei andato a trovarli. Parlavo delle sbornie che avremmo fatte, delle cantate e del vino nuovo. Dicevo a uno, guarda che ti esce una cordata di pidocchi dal collo. Ridevano allora e un altro diceva a me, sergente Maggiù, ti esce una pattuglia dalla manica, hanno la falce e il martello sulla schiena, guardali quei sovietici. Ridevo io allora e ridevano tutti. Il Baffo fingeva di dormire. Prima di uscire, andando verso di lui, lo chiamai e gli tesi la mano. Buon anno. Vedrai che a Baita ci arriveremo a far la sbornia. Non finisce mai. Non finisce mai. Egli mi rispose. Così passavamo le giornate. Nella tana a scrivere o a pensare guardando i pali di sostegno oppure a buttar pidocchi sulla piastra arroventata della stufa. Diventavano allora tutti bianchi e poi scoppiavano. Di notte si era fuori ad ascoltare il silenzio, a guardare le stelle, a preparare postazioni, a piantare reticolati, a passare da una vedetta all'altra. Molte notti le abbiamo passate a tagliare cespugli e canne davanti alle postazioni di Pintossi. Com'era strano tagliare cespugli e piante con accette e baionette di là dai reticolati nelle notti fredde sulla neve. Si capiva che i russi stavano zitti ad ascoltare cosa facevamo. Riunivamo in un gran mucchio davanti a noi tutte le piante tagliate. Ne risultava un bel groviglio che sarebbe stato difficile da attraversare più dei reticolati e più rumoroso. Quando nevicava, Bisognava stare molto attenti e guardinghi per il pericolo dei colpi di mano. Una notte, mentre da solo giravo con il camice bianco sopra il pastrano, come un fantasma, mi accorsi di una pattuglia russa che tentava di aggirare il caposaldo. Non vedevo i russi, ma sentivo la loro presenza a pochi passi da me. Stavo zitto e immobile, e loro stavano zitti e immobili. Sentivo che guardavano nel buio come facevo io, le armi pronte. Avevo paura, quasi tremavo. Se mi avessero preso e portato via? Cercavo di dominarmi, ma le vene della gola mi battevano forte. Avevo veramente paura. Infine mi decisi. Gridai, buttai le bombe che avevo in mano e saltai nel camminamento. Per fortuna una bomba scoppiò. Sentii i russi che correvano e al bagliore vidi che si ritiravano nei cespugli più vicini. Di là aprirono il fuoco con un'arma automatica. Nel frattempo erano giunti alcuni uomini di Pintossi. Dall'orlo della trincea incominciammo a sparare anche noi. Uno corse a prendere il mitragliatore. Si sparava e poi ci spostavamo di qualche metro. I russi della pattuglia rispondevano al fuoco, ma lentamente si allontanavano. Si fermarono poi alquanto lontani e spararono insistentemente con una pesante. Ma alla fine era freddo. Loro ritornarono alle loro tane e noi tornammo alle nostre. Se avessero potuto prendere uno di noi, forse sarebbero andati in licenza al loro paese. Alla mattina, con il sole, uscii a osservare le tracce che avevano lasciato. In verità erano più lontane di quanto avessi supposto la notte, e fumando una sigaretta guardavo le loro postazioni al di là del fiume. Ogni tanto vedevo uno di loro che s'alzava a prendere la neve dall'orlo della trincea. Faranno il tè, pensavo. Mi venne il desiderio di berne una tazzina. E li guardavo, così come si guarda da un sentiero un contadino che sparge le tame nel campo. Qualche tempo dopo, appresi che per il fatto di quella notte mi avevano proposto per una medaglia. Perché cosa l'avessi meritata, non lo so proprio. Ai primi di gennaio capitarono al nostro caposaldo, assieme alla corvée del rancio, tre soldati di fanteria. Erano meridionali della divisione Vicenza, che i comandi superiori, chissà perché, avevano sciolta, mandando gli uomini fra le compagnie alpine. Il tenente li assegnò alla squadra del Baffo. La sera andai a trovarli. Due non volevano uscire di vedetta. Non si fidavano, mi dicevano nel loro dialetto, e uno piangeva. Li feci accompagnare al posto di vedetta da due alpini e per convincerli che non c'era pericolo camminai in piedi fuori dalla trincea e scesi fischiettando fino ai rottami, sicuro che i russi non avrebbero sparato. Pensavo di averli convinti, ma non vollero restare soli, sicché dovetti appaiarli con un alpino. Il terzo invece era in gamba. Da borghese faceva il saltimbanco in un circo equestre, conosceva mille giochetti e nella tana teneva allegri tutti con quello che sapeva fare e con delle uscite che facevano ridere anche il baffo. Gli alpini gli volevano un bene dell'anima. Battendosi sui denti con due pezzi di legno componeva persino delle tarantelle. Imparò subito a suonare in quella maniera la marcia degli alpini. Quando raccontai la cosa a Moreschi, mi rispose: «Possibile? Na cavra de et quintai!» Perché Moreschi non credeva mai a niente. E quando uno diceva che la sua ragazza era la più bella di tutte, o che teneva nello zaino un pacchetto di sigarette da 50, o che a casa aveva in serbo una damigiana di vino per quando si sarebbe ritornati, usciva fuori improvvisamente a dire: «Possibile? Una capra di 7 quintali?» Ogni tanto raccontava la storia di quel tale che alla stazione di Brescia aveva fermato l'Oriente Express. Era in mezzo al binario e giocava alla morra con gli altri compagni. E quando sentì spingere alle spalle si girò seccato gridando: «Chi è qui che urta?» Ed era l'Oriente Express che veniva da Milano. Ma, soggiungeva Moreschi, era un caporal maggior della pesante, con le spalle larghe così. Poi guardava le reclute e ripeteva: Possibile una cavra da Ed Quintai? Schiudeva quindi le labbra e tra i baffi neri e la folta barba nera mostrava una fila di denti bianchi. I suoi occhi, sotto le sopracciglia nere, avevano un riso ingenuo e buono. Meschini, guardando anche lui le reclute e smettendo di mestolare la polenta, concludeva: «Non era caporal maggiore dei mitraglieri, ma dei mortai!» E le reclute ridevano. Verso il 10 di gennaio incominciarono ad arrivare assieme al rancio delle notizie poco buone. Turn e Bodei, che erano andati alle cucine, ci dissero di aver sentito dai conducenti che eravamo accerchiati da diversi giorni. Ogni giorno arrivava qualche novità a mezzo radioscarpa. Gli alpini incominciavano a diventare nervosi. Mi chiedevano qual era la direzione che bisognava prendere per arrivare in Italia e quanti chilometri c'erano. Juanin mi domandava sempre più spesso: «Sergent Maggiù, che arriveremo a Baita?» Anch'io sentivo che qualcosa non andava. I russi al di là del fiume avevano avuto il cambio e di notte lavoravano a tagliare cespugli e piante per aprire il campo di tiro alle loro armi. Quando ero solo, guardavo laggiù, a sud, dove il fiume girava, e vedevo dei bagliori come lampi estivi. Ma erano tenui e pareva che venissero di là dalle stelle. Qualche volta, quando tutto taceva e v'erano soltanto le cose, sentivo il rumore lontano come di ruote che rotolassero su un acciottolato coperto d'acqua. Era un rumore che prendeva tutta la notte e la riempiva. Ma non dicevo nulla alle vedette. Forse lo avevano già notato anche loro. I russi erano diventati più attivi. Giravo con il moschetto senza sicura sotto il braccio e con una bomba della marca migliore in mano. La posta arrivava sempre e il rancio anche. Una sera, che ero nella tana del tenente a fumare una sigaretta ed eravamo soli, «Rigoni», mi disse, «ho avuto disposizioni in caso di ripiegamento». Non risposi nulla. Capivo che ormai era finita, veramente finita. Ma non volevo ammetterlo. Sentivo il mio solito dolore allo stomaco. Capivo che cosa eravamo noi e che cosa volessero i russi. Tornando nella mia tana, dissi forte: «Qualunque cosa succeda, ricordatevi e mettetevelo bene in testa che dobbiamo restare sempre uniti». Il tenente voleva che si provassero tutte le armi automatiche. E la mia tana era diventata un'officina. Moreschi, che da borghese faceva l'armaiolo in una fabbrica della Valtrompia, puliva, oliava, smontava e persino stemprava e ritemprava i molloni per renderli più adatti alla temperatura, limava e batteva. Quando un'arma era pronta, la si portava in un camminamento verso la squadra del baffo. Io sparavo e Moreschi e il tenente ascoltavano ed osservavano come funzionasse. Non tutte le volte Moreschi era contento, scrollava la testa e stringeva le labbra. Riportava allora l'arma nella tana e ricominciava da capo. Quando erano pronte, mi raccomandava di dire ai capisquadra di tenerle bene avvolte in una coperta per il freddo e in un telo da tenda per la sabbia sottile che filtrava nelle tane e penetrava ovunque. Così, dopo tanto lavorare e raccomandare, i quattro mitragliatori, la pesante e i quattro mortai da 45 erano in perfetta efficienza. Una di quelle ultime sere, una pattuglia russa di pochi uomini era sfilata sotto i nostri reticolati e, passando inosservata sotto la scarpata, giunse al posto di vedetta dove, per fortuna, si trovava Lombardi. Questi gettò delle bombe a mano e la terza scoppiò. Tirò qualche fucilata e i russi, vistisi scoperti, ritornarono indietro. Appena udii la bomba e le fucilate, corsi da lui. Come se mi parlasse di vacche, disse: «È stata qui una pattuglia russa. Uno trascinava una specie di carriola e lasciava dietro di sé un filo. Saranno stati qui a 2 metri». Io stavo zitto e non volevo crederci. e dopo un po' passai dalle altre vedette. La mattina dopo, quando venne il sole, vidi le tracce sin dove mi aveva indicato Lombardi e mi vergognai di non avergli creduto. Era così tranquillo e impassibile. Qualcosa non andava proprio. Si viveva tutti come in un incubo e il tenente riposava poco. Era sempre in giro da una postazione all'altra, di giorno e di notte. Quando una sera ci parve di sentire dei rumori sotto la nostra scarpata, stette steso sulla neve con due bombe pronte finché quasi si assiderò. E non c'era nulla. Forse una lepre o un gatto. Un alpino della mia vecchia squadra, A, non ne poteva più. Era da poco ritornato dall'ospedale. Aveva la scabbia e voleva a tutti i costi fare il cuciniere. Un mattino ero entrato nella tana e mi ero appena sdraiato sulla paglia e gli fece girare lentamente la sicura del mio moschetto che avevo appeso ad un chiodo su un palo di sostegno e mentre parlava con i suoi compagni fece partire il colpo. In direzione della canna teneva il piede. Però aveva calcolato male, si forò soltanto la sporgenza della suola. Non dissi nulla. Solo lo guardai e gli feci capire che avevo intuito cosa intendesse fare. Il giorno dopo, mentre era solo e stavo uscendo per andare nella postazione a fare il suo turno di vedetta, così raccontò, partì un colpo dal suo fucile che gli passò da parte a parte un piede. Il tenente lo fece trasportare all'ospedale. Nessuno immaginò la verità. Due giorni dopo, durante l'attacco dei russi, parlai di questo al tenente. Vedete, gli dissi, non poteva più restare con noi. Aveva troppa paura. Ora, questo alpino vivrà tranquillamente al suo paese e si prenderà la pensione. Il caporale Pintossi era forse il migliore di tutti noi. Che bravo cacciatore e che passione! Sembrava piccolo perché era largo di spalle e aveva un po' di pancia. Sorrideva sempre ed aveva due occhi piccoli ed acuti. Trasandato nel vestire, portava il fucile con la disinvoltura e la familiarità del cacciatore. Calmo e flemmatico. Non lo vidi mai irritato, non lo sentii mai bestemmiare. Ed era sempre presente, pacifico, con il suo inseparabile fucile nel momento del bisogno. E che bravo tiratore! Non dava quasi mai ordine ai suoi uomini, ma faceva. E gli alpini della sua squadra facevano nel suo esempio. Con lui mi trovavo sovente a parlare di caccia. Ai cotorni, diceva, è il più bel tiro e la più bella caccia. Quando ritorneremo in Italia, ci andremo insieme. A casa ho un braco che è un fenomeno. Faceva schioccare le dita. Dick si chiama. Che bella bestia. Ecco, allora diventava triste quando parlava del suo cane. L'altro caporale della squadra era Gennaro. Chissà di che paese era. Meridionale, certamente. Maestro o ragioniere o qualcosa di simile. Frequentò un corso ufficiali, ma non lo avevano fatto idoneo e così faceva il caporale. Parlava poco, era timido con gli alpini e questi, se qualche volta lo canzonavano, provavano per lui rispetto e affetto. Non aveva certamente un cuor di leone, ma la sua personalità, senza farsi notare, si comunicava a chiunque gli vivesse vicino. Nel suo gruppo non succedevano mai storie per la spartizione del rancio o per il turno di vedetta o per quello di lavoro. Il suo mitragliatore funzionava sempre. Quando c'erano allarmi o pattuglie russe che molestavano, era tra i primi che uscivano dalla tana per correre nel posto minacciato. Eppure, ne sono certo, dentro di sé tremava come una foglia di betulla. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna.